con Sabrina Baracetti di Tucker Film per parlare del film Burning, L'amore brucia di Lee Chang-dong al cinema da giovedì 19 settembre 2019. Sabrina, ben trovata. Ben trovato a te e a tutti i radioascoltatori. Sono molto contenta di fare questa diretta perché finalmente, dopo più di un anno, siamo riusciti come Tucker Film a portare nelle sale, a partire appunto dal 19 settembre, un film capolavoro che noi vedemmo e di cui ci innamorammo perdutamente proprio a Cannes del 2018. Quindi l'uscita in sala di Burning, L'amore brucia di Chang-dong, colma un po' nella sala italiana, appunto, colma un po' questo vuoto di premi che proprio a Cannes l'anno scorso aveva visto così uscire un po' a testa bassa uno dei più grandi registi del cinema internazionale, perché non è soltanto un grande regista asiatico, è uno dei nomi più importanti del cinema di oggi, Chang-dong. Appunto, dicevamo che a Cannes l'anno scorso è uscito un po' a testa bassa e tutti noi, perché prima aveva raggiunto il record di preferenza della critica internazionale, un record che era proprio mantenuto da un film di molto tempo fa, quindi lui ha battuto addirittura quella media, quindi tutti si aspettavano a un certo punto un premio per Chang-dong, che non è arrivato, ma condividono gli apprezzamenti di tutte le persone che l'hanno visto, diciamo, sia della critica che del pubblico, per cui il film è uscito anche in altri paesi europei, come la Francia, dove ha avuto un grandissimo risultato, e ora appunto lo lanciamo con questo sottotitolo, L'amore brucia. È chiaramente un film incandescente ed è incandescente anche il nostro animo, ci sono voluti 8 anni di attesa per noi, dopo appunto Poetry e dopo Secret Sunshine e dopo gli altri capolavori di Chang-dong. Lui si è innamorato di questo piccolo racconto, sono poche pagine appunto scritte da Murakami, che gli sono state sottoposte da un suo amico carissimo, che poi appunto firma con lui anche la sceneggiatura, e ne trae una storia completamente diversa, che ha lo stesso spirito, perché lo spirito principale di questo film è questa ricerca di un senso della vita e allo stesso tempo questa scoperta del mistero inaccessibile della vita di tutti i morti. Quindi lui trasporta una vicenda di 3 persone, insomma 3 appunto i personaggi che avviene nel Giappone contemporaneo di Murakami, in una Corea del Sud divisa, perché comunque anche un racconto su questo paese, la storia di questo triangolo amoroso. Forse è un po' limitante definirlo così, perché è anche un noir e un thriller incandescente, appunto, come ho detto prima, incandescente perché appunto ho scelto questa parola anche nella traduzione coreana, che si chiama appunto Burning, che è qualcosa che brucia d'amore, di passione, ma anche di mistero. E il film, oltre che essere una storia d'amore, è anche un thriller, un noir, con tantissimi colpi di scena, a un ritmo dell'arma e anche a un ritmo incalzante, perché vedremo che appunto si sviluppa il racconto in un periodo abbastanza lungo, ma la sensazione del tempo per chi guarda il film in sala è assolutamente impercettibile, perché siamo completamente catturati da questo senso del mistero che solo un grande regista come Lee Chang-dong è riuscito con questo film veramente. Del cinema di Chang-dong cosa sappiamo? Che non è un regista così prolifico, infatti questo suo sesto film è un regista che basa la sua arte sulla scrittura anche, perché lui stesso è uno scrittore, infatti lui si è cimentato anche in romanzi e quindi racconta le storie che sente sue, che scrive lui direttamente, perché infatti anche questa è una trasposizione, insomma, d'ispirazione, quella data da Murakami. E sappiamo anche che è un regista che non dà soluzioni, non si impone allo spettatore portando appunto la sua relazione, lo fa lentamente, lascia allo spettatore poi decidere cosa trarne dalla storia che ha raccontato. Quindi lo stile visivo, infatti una delle cose più importanti di Burning è proprio esteticamente la sua forza visiva. È un film elegantissimo e allo stesso tempo minimale. In quante sale? Usciremo circa in una ventina di sale per questa settimana e contiamo poi di allargarci nella settimana seguente. Quindi quindi c'è la possibilità sia da nord a sud in tutta Italia di poterlo vedere, e consiglio veramente di vedere questo film in particolare sul grande schermo, cioè di non aspettare di andare subito in sala a vederlo, perché è uno spettacolo veramente per gli occhi. Burning, l'amore brucia, di Lee Chang-dong, al cinema da giovedì 19 settembre 2019. Un saluto e un ringraziamento a Sabrina Baracetti di Tucker Film, che lo distribuisce. Sabrina, un abbraccio, un in bocca al lupo e a presto. Grazie a voi, ciao.